a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, un saluto a tutti da Francesco Galante, ben trovati, ma soprattutto voglio dare il saluto a Federico Boin, che è con noi al telefono, presidente del sistema di categoria Officine Meccaniche dell'UPA di Padova. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Oggi parliamo di una bella iniziativa, è un'iniziativa che credo sia molto valida per i nostri giovani, è un'esperienza di alternanza scuola e lavoro. Ci può raccontare che cosa avete pensato e realizzato? Sì, allora innanzitutto non è che sia una novità, forse è più una novità in Italia che fa nei paesi, diciamo, altri paesi d'Europa, perché noi ci siamo basati sull'esperienza della formazione duale tedesca per creare appunto delle opportunità di fare dell'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro significa che in pratica oltre a esserci semplicemente insegnanti ad insegnare all'interno delle aule scolastiche, soprattutto negli istituti magari professionali o tecnici, abbiamo pensato che forse portare anche delle esperienze nuove di artigiani e imprenditori all'interno della scuola fosse una cosa importante. Uno, per far, diciamo, conoscere i ragazzi cosa sono le nostre aziende, quindi che tecnologia c'è all'interno delle nostre aziende, e fargli capire meglio anche i ragazzi cosa significa entrare nel mondo del lavoro, quindi cominciare a toccare con mano quello che sarà il loro futuro. Certo, e quindi avete realizzato un progetto insieme all'ITIS Newton di Campo San Piero. Com'è andata questa esperienza? Siamo partiti da un primo progetto, piccolo progetto, che si chiamava Artigiani in Cattedra, in cui hanno partecipato degli artigiani, e che si è svolto al Bernardi di Padova, sì. Okay, in cui abbiamo approcciato il primo contatto, diciamo, con la scuola. E poi l'abbiamo fatto evolvere da un professionale a un istituto un istituto tecnico, quindi siamo passati all'ITIS Newton del Campo San Piero, al quale abbiamo, tra virgolette, prestato quattro nostri artigiani, che si sono cimentati nell'insegnamento. Cosa significa? Hanno incominciato a rapportarsi intanto con i professori, creare un dialogo quindi tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola e dell'insegnamento, e si sono cimentati appunto nel creare delle vere e proprie lezioni nelle quali spiegavano cos'è il mondo del lavoro e come funziona un'azienda. Quindi basandoci proprio partendo proprio da dei progetti reali, che possono essere delle lavorazioni meccaniche o dalla progettazione di un modello di uno stampo, per spiegare ai lavori quali sono i processi, quali sono i meccanismi e quali sono, diciamo, le novità per fare queste tipologie di lavoro. Abbiamo visto parecchio anche entusiasmo da parte dei ragazzi, perché tante volte a scuola si sta molto sui libri, magari poco, si parla poco e si tocca poco con mano quello che è effettivamente la realtà lavorativa, e questo ha permesso loro di vedere quello che effettivamente sarà il loro futuro, diciamo, il loro futuro lavoro. Ecco. Certo, io ho fatto 30 anni fa, anche di più, un ITIS, e le cose che mi ricordo di più della scuola sono proprio i laboratori, dove mettevo mano e riuscivo a costruire qualcosa, e sono le cose che mi sono restate più in mente, quindi che magari sarei forse in grado, a distanza di anni, di ripetere. Quindi questo è decisamente formativo. Sono stati coinvolti 100 alunni delle classi terze e delle quarte, no? Sì. E la cosa che forse è anche interessante è che, oltre ai ragazzi, sono stati colpiti gli artigiani di questo, perché non è poi facile per un artigiano insegnare dei ragazzi. No, infatti è stato, diciamo, da parte nostra e da parte dei quattro artigiani, sono anche amici, è stata quasi una sfida, perché, diciamo, siamo tutti bravi tecnici, abbiamo delle belle aziende, però non ci siamo mai approcciati a quello che è effettivamente il mondo della scuola, e quindi sedersi dall'altra parte, siamo stati studenti tutti quanti, ma non siamo mai stati insegnanti, quindi incominciare e provare, diciamo, a fare l'insegnante non è così semplice. L'esperienza per me, che ho visto un paio di lezioni, è stata positiva, perché i quattro insegnanti artigiani sono stati parecchio capaci, si sono preparati delle slide, degli argomenti molto importanti e focalizzati anche in base a quanto avanti erano col programma gli studenti appunto degli studi, e quindi è stata una bella collaborazione con la scuola, perché diciamo si è fuso il sapere dell'artigiano col sapere dei docenti ed è venuta fuori una bellissima esperienza. Abbiamo visto anche gli studenti stessi molto motivati e molto attenti, e quindi penso che sia un'esperienza che si ripeterà. Ecco, leggevo che i migliori alunni sono stati premiati con una visita in una ditta, la Pagani. Volevo sapere come sono stati selezionati i migliori alunni. Allora, logicamente i quattro artigiani insegnanti facevano anche delle prove all'interno delle loro lezioni per vedere insomma i gradi di attenzione, sì, e le capacità cognitive e le capacità anche di relazionare con un vero e proprio progetto, e facevano appunto dei, tra virgolette, dei compitini in classe nei quali mettevano alla prova gli studenti, e gli studenti che hanno risposto in modo più corretto a variati quesiti delle varie lezioni fatte sono stati premiati con questa visita alla Pagani. Ecco. Penso che noi come categoria dovevamo fare appunto un'uscita per visitare questa azienda, che è un'azienda del settore automobilistico che fa auto di nicchia, di lusso, di nicchia sportive, uh-huh, e abbiamo pensato di unire diciamo la nostra visita a questa azienda, che è comunque un'azienda artigiana, perché non è una Fiat o una Ferrari, certo, diciamo, di unire la nostra visita e unirci e portarci dietro appunto questi ragazzi meritevoli, insomma, perché sono stati attenti e capaci. Ecco, sono sicuro che ovviamente continuerete a riproporre queste esperienze. Sì, sicuramente, anche perché è la cosa più importante, soprattutto nel nostro settore, ma come negli altri, è creare un buon rapporto di collaborazione con le scuole e con gli insegnanti, perché noi dobbiamo attingere a loro per recuperare nuovi collaboratori, e logicamente i tempi cambiano, bisogna anche le scuole stesse di stare al passo con le nostre aziende, perché per costruzione, per stare in piedi, devi fare continui investimenti. Mm-hmm. Tante volte gli investimenti che noi facciamo le scuole non possono più farli, e forse allora è meglio che entriamo noi a dare una mano alle scuole e incominciamo a far capire come si sta evolvendo la tecnologia, dando un supporto ai professori. Certo, perché se no la scuola continua a insegnare delle cose che magari andavano bene 10-20 anni fa lasciano completamente spaesato il ragazzo nel mondo del lavoro reale. Infatti questa è proprio la motivazione principale che ci ha spinto a provare questa nuova avventura, che comunque si sta rivelando positiva. Benissimo, grazie a Federico Boin, presidente del sistema di categoria Officine Meccaniche dell'UPA di Padova, per averci raccontato questa esperienza, e buon lavoro. Grazie a lei e buongiorno a tutti. Can you keep the bird out for the water? Didn't fall in dry. You're gonna reach but the birds, go to cause you into the lid. Take it for the side to the ground. We'll be your light in the darkest night. You know what I mean, stay away from the dark. Leave into the shine. Down, you got a priest, but they're good. Did a good to cousin to the lid. Taking fun that starts into the brown with the all out in your darkest night. You know we're a mere step away from the dark, even to the soul. We are all down. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'Arte, bentrovati da Francesco Galante. Grazie ancora al presidente del sistema di categoria Officine Meccaniche, Federico Boin, che nella prima parte ci ha presentato questo progetto di alternanza studio e lavoro per gli studenti. Se volete riascoltare questa trasmissione trovate tutto all'interno del sito bluradioveneto.it con la notizia che riguarda l'Unione Provinciale Artigiani. E parliamo anche di un altro servizio, è il servizio paghe e amministrazione del personale dell'UPA. È un servizio personalizzato che mette al centro le specifiche esigenze di ogni impresa, dalla dimensione dell'impresa alla tipologia dell'attività. UPA offre servizi di gestione delle risorse umane, paghe e amministrazione del personale, grazie alla competenza di numerosi esperti del settore e alle più moderne tecniche informatiche. L'ufficio garantisce un puntuale aggiornamento alle imprese e agli operatori paghe di UPA Servizi SPA sulle variazioni che intervengono nel mercato del lavoro. Inoltre, garantisce un puntuale aggiornamento sulle nuove misure rivolte alle imprese per incentivare l'occupazione presso la propria azienda, previste sia dalla normativa nazionale che da quella regionale. Per saperne di più, basta collegarsi al sito www.upa.padova.it e andare nell'area dedicata ai servizi, oppure potete chiamare lo 049 8206 311. Ripeto, 049 8206 311. Grazie per la vostra attenzione. La prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento insieme all'UPA di Padova per A Regola d'Arte. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.